alle 11. Vai a tarda se siamo appena sturbati in cannone de Cristo. Orb, DJ Nervo, Bunker Studio. Questo è Nuovi Stili EP, baby. E non mi fotte un cazzo se non va de moda, yeah. Io sono un gangsta rap e faccio solo questa roba. E perciò qualcuno penserà che buffone, ma chi me conosce sa che non son coglione. È così che va e non puoi fare niente. La mia ispirazione è questa mia gente. La tua testa vola come un dirigibile. Io volo più basso però so più credibile. Racconto tutte storie strane e stravaganti. E siccome è tutto vero non so, tutte esaltanti. Vita borderline che non rinnego, no. Chi spara minchiate io col vero lo frego, yeah. E se un giorno anch'io farò vede culi e tette, sarà perché io me lo potrò permettere, yeah. Anzi lo farò per poter rappresentare, yeah. La volontà di ognuno di poterlo fare, yeah. Adesso bella, ve bella. Voglio tutti qui, ve voglio tutti pronti per Nuovi Stili EP. DJ Nervo con le basi, produzione originale, yeah. Stiamo troppo avanti, non ve la piatta mai. Adesso bella, ve voglio bella. Tutti qui, ve voglio tutti pronti per Nuovi Stili EP. DJ Nervo con le basi, produzione originale. Stiamo troppo avanti, non ve la piatta male, yeah. Yeah. DJ Nervo al beat, Orb, questo è Nuovi Stili EP. Il nuovo cazzo de Peter 2011, regà. Bunker Studio, come sempre, yeah. Bisogna realizzare qualsiasi aspirazione e credere in qualcosa da qualsiasi posizione. Anche se scomoda il più delle volte, devi sempre sta in cerca di svolte. E poi sembra strano quando aspetti non arriva, come quando sta allappato e te manca la saliva. Poi magari cazzo arriva improvvisata, se te dice bene a qualche cazzo di serata. Tipi lucidi e visi impavidi, tipi trucidi e visi avidi. La faccia nulla cambi pure se cambi vestiti, e la colpa non se lava, non se leva dai pentiti. Se fai una cazzata te può pure dispiacere, ma il fatto è sempre uguale e sempre quello è. Quindi frate te lo dico, stacce, le cose prima de falle è meglio pensacce.